ti trovo. È stata una delle vittorie proprio quella di essere riconosciuta con le tre L. Fantastica. Ci è voluto un po' di tempo. Quella decina d'anni. C'era Cattelan che aveva fatto un lavoro, o era Fantin che aveva fatto un lavoro scrivendo Cattelan con tre T? Non lo so. Che poi erano tre croci. Era bello quel lavoro. Forse più Fantini morfo che Cattelano morfo. Non saprei, devo dire. Va bene, ascoltatori, immaginatevi questa scritta Cattelan con tre T, di cui la seconda centrale più alta delle altre e la T che forma una croce, le tre croci. Mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra Veronesi qui. Abbiamo un'altra Veronesi, ebbene sì. Veronesi. Una Veronesi silente o non parlante, oppure puoi dire ciao. Salutabile, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Dotata di favella. Giada. È un piacere tornare qui perché c'eri già stata. Anni e anni fa facevamo una trasmissione. Addirittura. Sì. Cioè. Allora basta. Le io sorelle. Mi metto subito laterale e infatti, faccio fare tutto a loro. Mi, ma mi in metto realtà a schiacciare una pellicola. Iniziamo nella sede quella in San Donato. Esatto. Parliamo di tanti anni fa. In San Donato. C'era se non sei preparato Paolo tu. Paolo Fabbri. In via Paolo Fabbri. Stiamo parlando veramente di tanti anni fa. Esatto. E che programma era? Si chiamava. Era con Gemma, snobbissima. Esatto. Ma siete sicuri che non era la Radio Città del Capo? No, sicurissimo. No, Paolo Fabbri mi è venuto un attimo di dubbio. Non siamo sicuri. Con la snobbissima di J. Pezzo, niente di che si chiamava. Wow. Niente di che, bello. Non hai capito. E non c'era il podcast allora, quindi. Non c'era nessun podcast. Se uno non ha le pizze, è tutto perduto. Però c'erano le pizze. C'erano le cassette. No, c'erano le pizze che ci ordinavamo noi e ci mangiavamo. Ah, le pizze, quelle da mangiare. Esatto. Le pizze, fantastico. Che nostalgia. Volevo cominciare con una cosa che non c'entra niente. Ovvero ci ha scritto, cioè non a noi, però qualche ora fa, alle 14, alle 16, ci ha scritto Luca Baroncini che presenta Fuori dagli schermi, R tra parentesi, martedì 19 dicembre, che è domani, alle 21, presenta il suo libro Fuori dagli schermi. Però che sarebbe fuori dagli schemi senza la R. Schemi, però, esatto. Però con la R barrata. Però non ho capito dove cazzo lo presenta, perché non c'è scritto. Hai detto una parolaccia. È un percorso emozionale dove cinema e vita si raccontano. Fammi un po' vedere. Pasquini si è perso nelle sue stesse. No, niente, non c'è. No, cioè, vabbè, allora cercatevelo. Allora, quiz. Esatto. E anzi, Luca, il primo Baroncini, che lo trova. Intanto, grazie per averci segnalato questa cosa. La prossima volta, magari, metti anche dove fai questa presentazione. Cos'è sta roba? Possiamo regalare qualcosa al primo ascoltatore che ci messaggia dove sarà? Possiamo regalargli un audio di Marco Roma che adesso andiamo che il adesso, grande Marco Roma che non ci abbandona che salutiamo mai. No, prima di tutto però devo in realtà mi sono già sbagliato, sto già sbagliando tutto stasera. È emozionato allora, perché ci sono io, era infatti, un anno che non coxavamo assieme. Infatti è vero. E no, devo dedicare una canzone a Mia che ci sta ascoltando da casa e la canzone si chiama Fuckboy. Coochie Beach in faded blue Levi's, she was cute as can be. I met a woman, she made a woman of me. She said trust is a choice we make eventually. We got in a car, we drove into the sunset. We left as strangers but we came back as lovers. Falling in love is next level scary. Felt too good to be true and then I hurt my baby. She said if you were a boy you'd be a fuck boy. I know you, I understand why sometimes you act like a fuckboy. Run away from me when I wanna hold your hand. I did some thinking and I tried to fight back. I'm not a fuckboy, I just think I was mad. When her life fell apart, she said it's all up to me to piece it together, then had the audacity to say if you I want closer and know that true love will set us free from the cages we have built for ourselves. I'm good for my baby, she is good for me too. We're healing ourselves and licking each other's wounds. I never wanna be the one to run away, so I'm choosing to trust. She said, if you were a boy, you'd be a fuckboy. But I know you, I understand why sometimes you act like a fuckboy. Run away from me when I wanna hold your hand. If you were a boy, you'd be a fuckboy. But I know you, I understand why sometimes you act like a fuckboy. Run away from me when I wanna hold your hand. Naturalmente Fantastico. Giffo da Vicenza che vi saluta dice sono io il fuckboy mio. che cretino. E la voce notavamo che è molto miomorfa. Era molto miomorfa. Sì, questo perché sì, questa si chiama, lei si chiama Little Green, è un'australiana e ci piace molto sia a me che a Mia. Però io adesso sono un po' invidiosa e quando non ci sono in radio voglio una dedica anch'io di una canzone. Okay. Nel frattempo nostra ospite è andata a casa. No, non è andata a casa, ma non solo, ha dimostrato Giada, che però non posso dire di galleria più, o anche tu si sei può dire parte di galleria, del no. team. No. Allora, una dice sì, l'altra dice no. Va bene, quindi così, decidete voi comunque. Potete giocarvela. Comunque, Giada è sul pezzo perché okay. ci ha già trovato dove si trova, dov'è questo evento? Biblioteca Lame. Ah, grande. Cesare, via Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13 a Bologna, evento gratuito. Ok. Biblioteca Lame, Cesare Malservisi. È quella che c'è in fondo a via Marco Polo, no? E infatti, via Marco Polo, 21/13. E invece. Proprio così. Sentiamo qua cosa succede. Buongiorno! Camminerò lontano, a volte mi sembra di starti più vicino e volerò come un aeroplano nel tuo cuore per stringerti con l'amore, perché tu lo sai, io ti amo sempre più. Da Marco Roma, buongiorno! Era veramente un sacco di tempo che Marco Roma non era così contento. Mi fa super piacere che almeno lui sia così allegro e innamorato. Bene, salutiamo Marco Roma. Infatti, e adesso faccio una piccola confessione, che la prima volta che comparve Marco Roma in questo programma io ero una neofita del programma. Mi ero un attimo preoccupata. Perché? Non lo so, ho pensato, ma poi dobbiamo fare amicizia con questo Marco Rossi. Io l'ho invitato a palesarsi in trasmissione, ma lui non, secondo me non ci ascolta neanche. Non ci caga minimamente, quindi non si correva questo rischio, mi vuoi no, dire? No, cioè in realtà gli abbiamo chiesto di fare un jingle di Coxo Spaziale e non l'ha fatto, oppure se l'ha fatto, perché comunque lui manda i vocali tutti i giorni, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e oggi. No, sabato e domenica lascia stare. È uno per spirito cui, libero ma dotato e noi certo ascoltiamo metodo. Di solito solo quelli di oggi, per cui Marco Roma, se fai un vocale apposito per Coxo Spaziale lo devi fare, lo devi mandare di lunedì, perché altrimenti comunque ce lo prendiamo. Molto citazione a Riccardo Benassi. Allora, di che cosa parliamo con queste ospiti? Allora, con queste ospiti parliamo della rivoluzione copernicana del sistema galleristico bolognese. Io mi ricordo che qualche tempo fa c'erano stati due al Forum dell'Arte Contemporanea che avevano aperto un discorso su questa cosa. È vero, avevamo aperto un discorso su questa cosa, ebbene sì, era 2018. Anche qua lanciamo un indovinello, chi erano quei due persone? Potete riascoltare qualche puntata perché ne parlammo. No, anche. Infatti abbiamo fatto una puntata del forum, esatto. Cioè sul forum. Sul forum qui a Coxo Spaziale. Comunque, stiamo parlando di arte contemporanea naturalmente, e Chiara Pergola e Stefano W. Pasquini nel 2018 dicevano che il futuro della galleria bisognava... Fuori dalle gallerie. Bisognava cambiare qualcosa, cioè nel senso che il sistema dell'arte così come l'abbiamo visto prima non andava più bene, e dunque appunto l'idea del nostro... Nel 2018 io ero invitata al forum dell'arte contemporanea al tavolo del mercato e mi ricordo che il mio intervento verteva proprio sulla rimessa in discussione del White Cube, quindi prima di parlare del mercato in generale, quindi mercato legato alle gallerie, io feci il mio intervento proprio sulla... sul, e infatti io sul mi ricordo cubo, che, il cubo si è che ti avevamo invitato, ma tu eri già stata invitata sulla parte del sul mercato, del mercato. Cui, invitatissima di chi lo se chi sì, lo poi strano perché mi hanno invitato 2017 tavolo etico, okay. E 2018 tavolo del mercato, che alla fine è stato anche è stato bello, perché una galleria che viene invitata al tavolo etico l'anno dopo il tavolo del mercato, che il mercato poi lo sempre hanno usato un po' da lontano, quindi figurati. E chi coordinava il tavolo del mercato, che io non lo ricordo più? Il tavolo del mercato era, non mi ricordo, il tavolo etico era l'artista Annalisa Cattani, era il tavolo etico, no, era adesso ce lo cerchiamo, ce lo cerchiamo. No, ho fatto una domanda a cui l'ospite non sa rispondere, non va bene questa cosa appunto, adesso ce lo cerchiamo e poi ve lo diciamo. Comunque Gifo si è innamorato di voi due, le due veronesi, per perché cui... Gifo è un cuoriccione che si innamora di quasi tutte le creature femminili che passano per di qui, tranne che di me. E sì, no, è un po' dispiace. E come è chiaro? In che senso? È chiaro. Vabbè, te sei troppo intellettuale per Gifo. Ah, ok. Perché scusa, Gifo è intellettualissimo. Vabbè, torniamo un attimo al cuore della nostra puntata, perché questa rivoluzione copernicana... Vogliamo conoscerlo. Ah, certo. Sì, certo, assolutamente. Questo se si paleserà, ma io non ci sarò quella volta. Io ho il suo numero di telefono e so anche il suo vero nome, fra l'altro. Spaventosamente. Una volta si è presentato qua. Quando ancora era innamorato di Fedra, anzi non si è presentato qua, si è presentato nell'altro studio, però dopo poi veniamo sgridati da Cannella perché stiamo facendo cose autoreferenziali. No, ma infatti parliamo io del sistema delle gallerie, frenare questa deriva, esatto. Volevo no, infatti, appunto ritornare sul tema. Perché, allora io faccio una domanda a Veronica, perché il mondo delle gallerie non funziona più? Cos'è successo? Ma posso prima chiedere se è vero che non funziona più? Io intanto parto da una piccola premessa, che io non sto parlando di, cioè non voglio di parlare di tutte le gallerie, ma io parlo di galleria più, quindi prendo parola, ma lo faccio proprio mettendoci la faccia, quindi tutte le riflessioni nascono da una mia esperienza personale. Dopo 10 anni ho sentito proprio il bisogno di rimettere in discussione il mio spazio espositivo, e in realtà mi sto prendendo 3 mesi di tempo, ho fermato, proprio un'idea di fermare l'attività espositiva, quindi per 3 mesi non ho opere, non ho mostre in programma, ma in realtà ho acceso lo spazio e lo faccio attraversare da diversi anni ormai che Galleria Più è meno attraversata, meno frequentata, sento un leggero calo di tensione da parte del pubblico cittadino e non, quindi proprio la volontà intanto di rimettermi in discussione io come gallerista, anche proprio di ridiscutere anche il ruolo stesso di gallerista. Quando mi chiedono che cosa faccio di mestiere mi fa quasi strano dire il termine gallerista. È un qualche cosa che non sento troppo mio. Quindi questi 3 mesi in teoria il mio scopo sarebbe quello di riscrivere la mission. 10 anni fa, quando ho aperto, io avevo abbastanza in mente quello che volevo fare a livello di statement e mission. Molto semplice, buttare nuova linfa sul mercato. Quindi l'idea era quella di lavorare con artisti che di base sono cresciuti con me in questi 10 anni, quindi nascevano in una fascia, chiamiamoli più, sulla fascia degli emergenti. In realtà abbiamo fatto un percorso di crescita comune in questi 10 anni, si sono successe all'interno dello spazio espositivo e anche fuori tantissime produzioni, tantissime cose che hanno caratterizzato l'attitudine dello spazio. In realtà adesso sento l'esigenza di riscrivermi, quindi di riscrivere la mission della galleria. E la vecchia mission cosa? La vecchia mission in realtà ha corrisposto benissimo a livello di reputazione, quindi sono contentissima del lavoro svolto, la galleria è conosciuta sia a livello nazionale che internazionale, quindi sono molto soddisfatta del lavoro fatto. La mission però prevedeva anche la corrispondenza del mercato, e su questo invece ci sono degli aspetti su cui devo rimettermi in gioco. Il mercato, questo tiranno, questo inafferrabile tiranno. Però a me sembra molto bella questa cosa. Io adesso faccio qui una confessione in diretta, che tante volte mi è capitato proprio di pensare alla tua galleria come un luogo dove si poteva proporre qualcosa da fare da un'altra parte, cioè praticamente uscire dalla... Quindi secondo me tu trasmetti un po' l'attitudine che mi hanno sempre riconosciuto è proprio questa, in realtà, sì, di essere, aver avuto sempre uno sguardo un po' altro, di essere anche un po' anche un outsider del sistema mercato e gallerie in generale. Ma un pochino io ho voluto fare proprio, è da tanti anni in realtà che ridiscuto l'idea del White Cube. Ultimamente veramente il cubo si è sbeccato, come se veramente fosse caduto e stia iniziando a scricchiolare già da diverso tempo. Fate conto che il White Cube come lo conosciamo adesso si è caratterizzato negli anni 70, e in quell'epoca c'era una domanda, tra parentesi, secondo me non esiste uno spazio meglio codificato del White Cube per veramente assecondare i desideri di un pubblico che all'epoca era un pubblico borghese con una domanda incredibile, che aveva proprio necessità di riconoscersi in questi luoghi così asettici, tra virgolette, anche caratterizzati da un forte snobismo. E in realtà precedentemente al White Cube, parliamo di fine 800 in Francia, nascevano i saloni, i salotti, ed erano proprio i prototipi delle gallerie dove ci si incontrava, erano degli ibridi in cui mercanti, filosofi, intellettuali, artisti si incontravano, si creavano delle connessioni. Certo, era contemplato anche il mercato, ma c'era l'ibrido. Con l'avvento invece del White Cube e la forza predominante della parte commerciale, l'ibrido si è perso. Fantastico. A discapito di questi luoghi che hanno, tra virgolette, consacrato il contenuto attraverso il contesto. Perché c'è un po' bisogno di ritornare a ricostruire una forma di pensiero attorno all'arte. Più che altro no, sono passati 50 anni. Sono passati 50 anni. Il mondo non è più come era 50 anni fa, il ceto medio sta scomparendo, se non è già scomparso, quindi io mi sento poi in uno stato di non rivolgermi più a nessuno. Nel senso che è diventato un ruolo molto autoreferenziale. Perché galleria di quasi 100 metri che non è attraversata, non è vissuta. Uno dei miei obiettivi 10 anni fa, che poi è stato anche raggiunto, era quello proprio dell'allargamento del target, cioè di far frequentare lo spazio anche a figure e attori che non arrivassero necessariamente dal mondo dell'arte contemporanea, che noi tutti navighiamo e frequentiamo e sappiamo che è un mondo assolutamente limitato. Ma è limitato a Bologna come è limitato tutto il sistema in generale, ed è per questo che forse non è neanche troppo attraente a livello ministeriale, perché siamo certo. Veramente in quattro gatti. Quattro gatti che se la cantano e se la raccontano. Un pochino così. Mi sembrava di ma avere... c'era Cannella che voleva chiudere Coxo Spaziale, non so perché. Ecco, perché siamo autoreferenziali anche noi venendo da quel mondo. Gli ha mandato un SMS dicendo che era ora che andasse in pensione. Vabbè, anche tu fai queste cose. No, invece io seguo sempre, ma so che trovo altri entusiastici qui, mm-hmm. del profilo Instagram The Bonamist di Francesco Bonami, che proprio recentemente, non so se li avete visti, io li trovo bellissimi, ha fatto una serie di clip su Art Basel Miami, infatti, che sono secondo fantastici. Me la sintesi, diciamo, anche di un momento e che fotografa, insomma. Beh, lui celebrò già ormai 10 anni fa il funerale del contemporaneo. È vero. Comunque fa queste clip in cui doppia Marina Abramovic, che dice piuttosto che andare a Miami faccio una performance dove mi uccido, capito? Metti su un pezzo che mi organizzo per farle sentire un pezzettino almeno in diretta, perché infatti. La tua invitazione di Bonami non è un granché. Mi è venuto intanto in mente, la saluto, Virginia Zanetti, è lei che diresse il tavolo etico. Virginia Zanetti, salutiamo Virginia Zanetti, che in questo momento è a Palermo. Secondo me lei apprezzerebbe che io adesso dicessi a Palermo per colpa mia, ma lasciamo stare. Cazzarole, Palermo per colpa tua, vero? Però dice che si trova bene. Molto bene. Io invece vi faccio sentire It's Forever Midnight, Cosmic Songs for Reptiles in Love, il primo full length di The Cosmic Gospel, progetto solista del cantante polistrumentista maceratese Gabriel Medina. Tries to catch you. composto, registrato e prodotto in autonomia durante l'estate del 2023, prendendo spunto da outtakes di precedenti band e da idee andate perdute nel tempo. L'album nasce in un periodo di transizione emotiva e riesce ad esprimere tutto il frastuono e lo scompiglio che un dolore o una gioia possono generare nell'animo. È uscito il 15 dicembre per Bloody Sound e ringraziamo Peyote Press che ce l'ha segnalato. Unhappy neighbor, did I miss the girls? Hey, always spies on you, always tries to catch you. I got inches bones, did I miss the girls? Did I miss the girls? Gabriel Medina di Macerata. Ah, Macerata. Ah. Detto anche The Cosmic Gospel. Ed è uscito il primo album il 15 dicembre, che si intitola Cosmic Songs for Reptiles in Love. Canzoni cosmiche per rettili innamorati. Eh? Bello. Bello. Molto bella. Lo dobbiamo dedicare, anzi lo devo dedicare a, aspetta che è bellissima sta cosa, lo devo dedicare a dove è andato Inge Aldina o Gradisca, no, che sarebbe? È che sarebbe la nuova figlia appena nata che non hanno ancora deciso come si chiama, ma sappiamo pensavo che fosse tutto un unico nome, no? io gli ho detto di chiamarla Steph, che è short for Stephanie, però non lo so, comunque di cognome farà benissimo. Salutiamo anche Mia naturalmente. Ah sì, è vero, è ora della pubblicità, per cui ci basta. Vuole. Spaziale. Ed eccoci tornati a Coxo Spaziale. Mi stavo dimenticando l'angolo della menzione. No, quello dopo. No, volevo salutare Mia, Valeria, Antonietta, Keiao, KT e Consuelo Rita che ci stanno ascoltando. Cioè, non sono mica poche. Bene, allora salutiamo. Salutiamo anche, io mi ricordo anche solo Davis. Mia, ma anche sì, no, Mia e le altre. Mia e le altre. Salutiamo Mia e le altre. Tra l'altro ci stanno ascoltando da varie parti d'Italia e del mondo. Non abbiamo mai avuto così tanti ascoltatori nelle puntate. Sì, no, in effetti. Così tante ascoltatrici. Sì, esatto. Che interagiscono. Sì, no, però in realtà se volete interagire dovete scrivere al 333 180 94 94 e niente, potete mandare anche un vocale, noi lo spariamo in diretta senza neanche ascoltarlo. È molto rischiosa questa cosa. E invece torniamo a Galleria Più, a Veronica e Giada che sono qui per raccontarci questo nuovo sì, progetto. No, infatti, perché poi ci sono anche degli eventi che stai, esatto, soprattutto. Diciamo questo, che tu durante la fiera, se ho capito bene, correggimi se sbaglio, sarai non sarai in fiera, sarai fuori fiera. Io sarò anche in fiera. Sarai anche in realtà Off ha un sottotitolo che si chiama Il ritmo va riguardato, quindi mi sono l'idea di Off è di spegnere, ma nello stesso tempo di anche, come vi dicevo prima, riguardare i ritmi, riguardare gli approcci, le dinamiche, le produzioni. Sono tantissime le tematiche che in realtà stiamo mettendo in campo. Il cuore di tutto il progetto in realtà è un ciclo di talk. Abbiamo inaugurato la prima sabato nella quale stiamo facendo proprio un'indagine sul senso meno degli spazi espositivi. La prima ha riguardato in particolare più lo spazio urbano. Abbiamo invitato i ricercatori di Into the Black Box a dialogare insieme a Fabiola Naldi. Prima di ragionare sul futuro dello spazio espositivo, abbiamo voluto ragionare sull'organismo città e sul futuro. Io penso sempre che Galleria Più in realtà sia nient'altro che una piccola bottega di qualità e di ricerca. Le piccole qualità di bottega e di ricerca nelle città come Bologna in realtà stanno quasi scomparendo, quindi abbiamo voluto un pochino guardare anche il discorso legato alla desertificazione dei centri urbani e tutto quello, il forte impatto delle tecnologie, delle piattaforme digitali sulle biopolitiche. Quindi sono stato il primo talk è stato rivolto a questi tipi di sguardi e di visioni. In realtà il programma è super eterogeneo, intanto ho voluto coinvolgere anche delle realtà locali, quindi figure che hanno attraversato lo spazio in passato, ma anche figure nuove, sempre per una ricerca di allargamento di target, ma anche perché mi piace l'idea di Galleria Più in questi 3 mesi diventi anche un luogo che possa essere frequentato da figure che sono in cerca di luoghi dove poter riflettere e provocarsi un pensiero. Quindi ho aperto la casa, ho aperto il salotto, intanto è diventato un salotto, non ci sono opere d'arte, ma uno spazio comodo che si può vivere, tra virgolette, stare, partecipare comodamente seduti sui divani, quindi proprio un'idea di salotto, un fatto un po' alla nostra maniera. Il comodamente focus... divani, non esageriamo. Beh, perché non sono comodi. Sono comodi. Devo dire che a me sono piaciuti molto. Sì, durante Arte Fiera si chiama proprio speciale performativo, quindi sarà off Galleria Più, speciale performativo, perché abbiamo chiamato 3 performer: Camilla Card, Marco Ginex e Luca Pagano. Il focus e la sottotraccia di tutto il programma di off, fatto di diversi tipi di collaborazioni, eventi, talk, performance, live set, streaming, è un pochino legato alle culture digitali, legate anche al corpo e alle nuove tecnologie. Quindi un pochino quello è il... E questo accadrà dentro alla fiera, questi eventi performativi? In galleria. Anche editoria. Esatto, abbiamo delle collaborazioni permanenti, sono riuscite a riattivare le 2 librerie di Galleria Più con Frab Magazine. Anna Frabotta è veramente una visionaria e più che altro un esempio virtuoso di come in realtà si può ancora lottare con un certo tipo di editoria. Lei in particolare deve venire a Cox Spaziano. Verrà a Bologna, l'abbiamo invitata al Tè Elettrico, perché è un format delle domeniche che inizierà a gennaio, il Tè Elettrico, dalle 5 alle 9 di sera avremo sempre una merenda. Bello. In cui faremo delle interviste e poi invece un live set elettronico. È che mi è scomoda la Galleria Più, è così lontana da casa mia. È lontana da casa tua. Sì, è molto Anna lontana. Frabotta in questi 3 mesi ci farà arrivare in galleria una selezione di magazine da tutto il mondo. No, sono bellissima i primi 30, sì, esatto. Ce la siamo fatti scappare perché la fiera adesso si sposta a Milano. Non è riuscita ad avere un dialogo col comune di Bologna, quindi molto velocemente invece l'ha avuto con quello di Milano. Capisco. Un'altra collaborazione permanente con Gruppo Creativo 01, che è un'entità, non sono neanche un collettivo. Non sono gli 0101. Gruppo Creativo 01 sono un gruppo di persone sparse un pochino in tutta Europa che hanno intanto curato l'identità visiva del progetto, quindi tutta la comunicazione, le grafiche che vedete in galleria è una comunicazione che si comporrà col tempo, lavora tantissimo sulla semiotica, quindi comunichiamo tanto attraverso i simboli. E hanno anche, adesso stiamo lanciando il giveaway della galleria, quindi per i 10 anni ci sarà un regalo alla fine dei 3 mesi. Per partecipare al progetto dovete raggiungere il sito www.becomeanangeltoday.com ed è una sorta di questionario in cui il gruppo creativo ti chiede di raccontare la tua esperienza come utente digitale. E c'è un premio? C'è un premio, esatto, è un premio. Hai che capito. È esposto in galleria. Sono anche interveniti sui muri della galleria con un murales ricco di critiche alle culture digitali. Bello. Ripetiamo magari il sito a cui bisogna l'indirizzo: becomeanangeltoday.com, che naturalmente troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Invece questo è il nuovo EP dei Benton, che è uscito il 15 dicembre per Last Floor Studio. Ya si chiama, un lavoro molto vario ed articolato che rispecchia bene tutte le sfumature che caratterizzano il portfolio artistico dei Benton. E niente, è uscito, i Benton sono Francesco Barletta e Umberto Coviello, ed è uscito, anche questo è uscito venerdì scorso, no, il 15, non so, era venerdì, sì, era venerdì, per Last Floor Studio. C'è che ci possiamo parlare sopra, perché è una specie di strumentale. È un instrumental. Fantastico, sì. Allora ce lo giochiamo come sottofondo. Esatto. Ma il prossimo evento, dunque, quando sarà, Veronica? Domani dalle 7 alle 11, si chiama Tutti Frutti, è un format di Galleria Più in collaborazione con Link Academy, è un'altra realtà cittadina. È un gruppo che si occupa di produzioni, hanno anche un'etichetta discografica che si chiama Immersioni Record. Sono già diversi anni che li seguo nelle serate che loro fanno in città. Sono tutti volontari, stanno mettendo a punto un suono interessantissimo e domani faranno una jam elettronica in galleria, quindi improvvisazione pura con tutti i tipi di macchine, dalle drum machine ai sampler, vedremo cosa combineranno. Prima di loro la serata si chiama Tutti Frutti perché in realtà abbiamo un Instagram scroll, cioè un enorme smartphone sospeso in galleria, all'interno del quale abbiamo chiesto a diversi pensatori contemporanei di condividerci il loro strano su Instagram. Quindi ci sarà uno scroll infinito che riguarda in realtà ogni appuntamento un topics differente. Domani un focus specifico sulle culture coreane. Hai capito? Super. E quindi scrolliamoci. Dalle di a che ora hai detto? Dalle 7 alle 11 di sera. Hai capito? Dalle 7 alle 11. Questa era Ellen dei Benton e ringraziamo Sei Tutto Press che ce l'ha segnalata. E dunque direi che possiamo anche andare con, visto che stiamo già menzionando cosa succede domani, menzioniamo anche la menzione. Domani dalle 19 alle 23 c'è Tutti Frutti, jam elettronica a Galleria Più. E dopo naturalmente su www.coxspaziale.blogspot e dopo domani c'è qualcos'altro prima dell'8 gennaio? Il 23 abbiamo il matinée con i ragazzi di Undicesima Casa, un'altra crew locale, dalle 9 di mattina alle 4 di pomeriggio, colazioni e le loro sperimentazioni live nel tappeto della galleria, quindi se volete venire a mangiarvi una brioche o a bere un latte chai ascoltando le fantastico. Loro improvvisazioni. Ma che bello, esatto. Assolutamente. Adesso so cosa fare per il mio compleanno. Non manchiamo di sottolineare, no, sempre quello che ti riguarda. No, invece adesso lui naturalmente va avanti con le sue menzioni. No, volevo sapere se possiamo ricordare o se abbiamo già ricordato dove i nostri ascoltatori possono trovare il programma, perché se non hanno memorizzato ogni singola parola Siamo attivissimi sui nostri social network, quindi la pagina Instagram della galleria è aggiornata quotidianamente. In realtà abbiamo fatto anche un po' di guerriglia urbana, per cui il manifesto realizzato dai ragazzi di Gruppo Creativo sta iniziando a comparire in zone strategiche della città. Iscrivetevi alla nostra newsletter, adesso abbiamo lanciato il programma di dicembre. Appena dopo Natale lanciamo il programma di gennaio, poi quello di febbraio, perché il ritmo va riguardato, è fino al 28 di febbraio, e poi chi lo sa. Comunque sono poche le menzioni, dunque ce n'è una mercoledì, anzi due, tutte e due mercoledì. Alle 17 c'è Chip che presenta i propri poster nel mercatino di Via Albani, all'ex Pollaio in Via Albani 13. Avremo poster, libri, cataloghi e cose col veleno. E questo succede anche giovedì e venerdì, sempre dalle 17. Per cui se avete bisogno di fare gli ultimi regali di Natale, potete andare a trovare appunto le cose col veleno di Chip. Mentre invece sempre mercoledì alle 18.30 abbiamo la presentazione del nuovo calendario dell'AMPI del 2024, con a seguire DJ Set by Ted Nylon e alle 21.30 una rassegna Nuovo Cinema Inferno. Tutto questo succede a Gallery 16 in via Nazario Sauro 16 a Bologna. Dopodiché il 23, che è sabato, dalle 9 alle 16 bisogna andare a fare il compleanno di Stefano W e fategli tutti gli auguri, esatto, perché sennò prima si offende. Fare gli al auguri. Matinee in Galleria Più, esatto, venite al Matinee in Galleria Più, così vi offre da bere, vi offre un cappuccino. No, in realtà sempre per ragionare in realtà sulla sostenibilità, perché uno degli argomenti, oltre alle produzioni, magazzini pieni, anche un discorso di sostenibilità, abbiamo riattivato il bar della galleria. Io quando aprì 10 anni fa feci la follia di prendere la licenza di caffetteria. Mi ricordo bene questa fase. Sì. In realtà abbiamo riattivato anche la possibilità di bere in galleria. E avete fatto super bene, infatti, perché cioè, è una cosa che in realtà le gallerie fuori dall'Italia fanno sempre, esatto. di avere il bar con il vino a pagamento, e invece in Italia o te lo offrono oppure tutti vanno via. Cox spaziale. Ebbene sì, nel caso non avevate capito, questo è Cox spaziale. E tocca a te, Chiara. Ah, io sono veramente senza parole per la energia e il dinamismo di Veronica e di Galleria Più, che stanno rinnovando completamente la scena. E devo dire che ci voleva questa boccata d'aria fresca. Io non era necessario. Era necessario questa boccata d'aria fresca. E quindi noi artisti che cosa possiamo fare per te? Partecipare, sicuramente partecipare al salotto, e ti ripeto, nei salotti si sono vinte delle guerre, si sono mossi dei movimenti, quindi quello che mi auguro, non di sicuro di vincere delle guerre, però di creare delle connessioni che possano di vincere essere delle paci, che possono essere, esatto, vincere delle paci male. Sarebbe ancora più bello, ma sicuramente che si possano innescare delle riflessioni in primis, ma anche delle connessioni che ci possano portare a muoverci in maniera più consapevole rispetto al presente. A proposito di connessioni, mi veniva in mente che poco tempo prima, qualche giorno prima, sempre Fabiola Naldi al Mambo, ne avrete sicuramente parlato, sì, anche qui a Coxo Spaziale, ha presentato un manifesto, un manifesto contro l'arte pubblica, una cosa, adesso non ricordo le parole esatte, però mi sembra che più o meno fosse questa la sintesi, e volevo sapere se hai avuto modo di leggerlo. E no, ero ancora troppo presa dagli allestimenti del programma. Ma io ho trovato che fosse molto coerente con quello che poi sta succedendo dalle tue parti. Non a caso Fabiola era qualche giorno dopo in galleria con Into the Black Box. Ti ripeto, sono molto contenta in realtà, perché il confronto è un momento abbastanza felice. Io perlomeno, per quanto riguarda i colleghi della mia fascia, ci stiamo confrontando già da diverso tempo e sto avendo un grande sostegno rispetto a alle tematiche che stiamo mettendo in campo. Quindi spero in realtà che questa miccia di usare Galleria Più come pretesto in realtà per parlare del sistema gallerie in generale. Il sistema gallerie è sempre legato alle piccole gallerie che non sono un brand e che si occupano di ricerca e di produzione, perché ricordiamoci che io in questi anni ho sempre prodotto mostre inedite e mettendo sempre in campo diverse voci che hanno sempre completato il progetto, sia sul piano critico che sul piano curatoriale. Quindi in realtà anche tutto quello che riguarda il comparto dei lavoratori, del sistema, in Galleria Più hanno sempre avuto possibilità di esprimersi, di avere sempre dei riconoscimenti anche a livello di FI, quindi è stato proprio un progetto che si è sempre posto la questione legata anche ai lavoratori del settore. Che diciamo ci vorrebbe proprio, no? questo legame che spezzi un po' gli individualismi che caratterizzano l'ambiente molto però spesso. Però se ti devo dire che me la sento di ripartire facendo finta di niente, continuando a produrre delle mostre che poi rimangono, che magari non guarda nessuno, che guardano parzialmente, no, certo, si fa sempre più fatica anche a diffonderlo a livello proprio di non solo di critica ma di diffusione attraverso anche le piattaforme che si occupano di arte. Ah certo, c'è anche sempre, perché da galleria c'è sempre più difficoltà. Come galleria, se tu non paghi l'algoritmo ti praticamente, esatto, ti cancella. Io su Instagram se non vado a vedere quelli che seguo, cioè io non vedo una galleria che è una, esatto, per il fatto che loro sapendo che sei una galleria non ti mostrano in testa il sottotitolo della Biennale di Architettura di quest'anno, che era no mining, no building. Mm-hmm. Non estraiamo e non costruiamo. Per me noi nell'arte ci dobbiamo porre la questione, sì, abbiamo ancora bisogno di produrre esatto, senza avere una destinazione. In uno scritto di Daniele Capra, quando aveva curato la mostra alla G7, parlava proprio di questo, cioè del fatto che comunque la responsabilità dell'artista nel momento in cui continua a produrre opere comunque sta producendo cose. La mia responsabilità sarà quella di produrre, sì, perché a me piace da matti l'idea di seguire le produzioni, mi piace, penso che lo sappiamo fare anche bene all'interno della galleria, però con una destinazione, quindi ci stiamo muovendo anche tanto per cercare delle triangolazioni. In questo abbiamo inserito una nuova figura che si occupa di fundraising, quindi di cercare di dare un po' un senso che giustifichi queste operazioni, perché in questo momento, almeno per quanto mi riguarda, senso non ce l'hanno troppo. Che poi è anche un sistema per interrogarsi su quali sono le nuove figure che possono, come dire, interessarsi, no? Chi sono dico tra virgolette, per usare un termine che però sarà automaticamente superato da tutto questo contesto, chi sono i collezionisti, i nuovi, come dire, chi riceve l'arte e in che forma? E sono tante domande, no? Chi sono i nuovi collezionisti e soprattutto chi ha il potere di acquisto, chi ha il potere acquisto, cioè il ceto medio, tra virgolette, borghese sta scomparendo, ma in realtà chi detiene il potere economico c'è, probabilmente non ha tempo di fare il globetrotter e di girarsi tutte le fiere che ci sono nel sistema, perché è concentrato verso altri tipi di attività, però credo che sia possibile trovare nuove strade di finanziamento, esatto, ma forse anche nuove strade di messa in circolazione, forse anche nuove strade per sostenere anche economicamente, diciamo, vendita, ma non solo vendita. Assolutamente, non vendita, ma sostenere in primis anche la galleria. Nel terzo talk ci sarà una provocazione addotta a un gallerista, prendendo veramente un po' come spunto, anche se pensiamo alle grandi league del basket americano, cioè lì è veramente prassi quello di cullare, finanziare i piccoli vivai dove nascono poi i futuri talenti, i grandi campioni. Noi in Italia fortunatamente ci sono tantissime gallerie piccole che si occupano di ricerca e di produzioni, che sanno trattare gli artisti, che li sanno formare, che io anche a livello contrattuale da quando ho aperto, che è una parte super importante poi per riuscire a fare poi il salto nel mercato, ci sono degli spunti. E gli altri tuoi colleghi galleristi come hanno reagito, diciamo, se hai parlato anche con altri di questo tuo progetto? Con alcuni sì, e sicuramente parteciperanno al programma, non siamo in tanti, quindi non tutti hanno Mi hai anticipato che ci sarà una partecipazione di, a un prossimo talk di Lorenzo della Galleria Continua? Sì, sarà non l'ultimo talk dirlo. Di febbraio. Non voglio spoilerare. Spoileriamo gli argomenti che sono il secondo, il mercato, e il terzo invece sono il White Cube del futuro, come potrebbe diventare, esempi virtuosi e anche proprio a livello di spazio, di architetture, di possibilità. Sempre di questi ibridi, cioè come potrebbe configurarsi la galleria del futuro. Hai capito. E ahimè il tempo ci sta sfuggendo. Giada, volevi dire, volevi raccontarci qualcosa? Niente in particolare, se non che, tornando al discorso della galleria, domani sera per me è una serata particolarmente piacevole, perché io collaboro con i ragazzi di Link Academy. Grande. E quindi sono molto curiosa, conosco come lavorano e come credono nella improvvisazione proprio come metodo loro di produzione, tant'è che oggi li ho contattati per sapere qualche anticipazione e loro stessi con orgoglio dicevano che non avevano preparato nulla proprio per non disturbare questo loro processo. Fantastico, l'andare a braccio, sì. Sai che io e Stefano W siamo dei grandi fanatici dell'andare a braccio, come si vede benissimo. Confrontandoci con loro hanno fatto però riferimento ai cadaveri squisiti surrealisti, quindi ci sarà proprio probabilmente questa modalità di buttare dentro un suono dopo l'altro e poi di aspettare la configurazione finale. C'è del dadaismo nell'arte. Sì, nell'arte. Una delle cose che mi ha affascinato è quella di coinvolgere anche delle figure che non si definiscono artisti, ma in realtà mi stanno dando tantissimi spunti. Anche qui il tema del creatore, dell'artista, quando vi parlavo proprio della ridefinizione dei luoghi, ma anche a livello linguistico, ci sono certe parole che iniziano a essere scomode. Diciamone una. Gallerista, anche artista, secondo me è un po' scomodo. Esatto, non volevo dirlo perché io non lo so, no. Quindi lo sei tu. No, anzi, io quando hai detto io sono in difficoltà a dire contenta. Gallerista, io ho la stessa difficoltà da sempre nel dire artista, è una cosa che mi imbarazza dentro. Non riesco ancora a spiegare, però mi imbarazza. Sì, è imbarazzante. Ringraziamo le generose Giada e Veronica Veronesi. Grazie a voi, sempre bellissimo venire qui. È sempre un piacere avervi. Io ero Chiara Pergola. Io ero Stefano W. Pasquini. E naturalmente, come al solito, vi salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Noi di Coxo ci risentiamo fra tanto tempo. Buon Natale, buon anno, buone feste, chi se ne frega. Ci risentiamo l'8 gennaio. Olè. Ciao. Ciao. Looking back on my life, you know that all I see are things I could have changed. I should have done. Where did the good times go? Good times so hard to hold. This time I'm gonna find. A wasted life that's been spent. So rise into the light in a out of time. Now rise straight to the light in a out of time. Another day, the pain won't go away. I am growing in peculiar ways. Into a light I pass, another dream, another chance. This time, this time, this time.